10. Ascolta e controlla. 1. Martina è in pasticceria per comprare dei dolci. 2. Hai una penna per favore? 3. Quando ho mal di testa, ho paura di avere la febbre. 4. In che mese siamo? Siamo nel mese di aprile. 5. Paolo è in piscina con Daniela e Marcella. 6. Che cosa hai nella borsa? Nella borsa ho una guida di Assisi. 7. Laura è sempre al lavoro e ha raramente tempo per leggere. 8. In che stagione è il mese di febbraio? È in inverno. 9. Dove hai la chiave di casa? Ce l'ho qui, in tasca. 10. Ci sono molte foto di Francesca nel cassetto. 11. Noi siamo in via Manzoni. 12. Non ho bisogno di batterie. 13. 2 batterie, per favore. 14. C'è qualcosa da mangiare? 15. Ho bisogno di poco tempo per preparare la pasta. 16. Luciano è sposato con Cristina.